Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Pensate che mi stavo sbagliando, stavo dicendo un abruzzo al giorno invece che un abuso al giorno. Ma c'è un motivo, cari radioascoltatori, perché oggi continuiamo a parlare di Abruzzo. Ho dato una parola ai miei radioascoltatori dicendo che avremmo continuato a seguire le vicende del terremoto anche dopo, diciamo così, l'evento tragico che ha colpito L'Aquila e i centri vicini. Continuiamo a farlo anche oggi, a poco più di un mese di distanza, con una storia che non è propriamente legata al terremoto, ma ci fa pensare sul patrimonio fatiscente immobiliare che c'è in Italia e sui rischi che corrono coloro i quali ci abitano. Accade infatti che Codici, che è un'associazione onlus, è un centro di servizi per i diritti del cittadino, il sito internet per chi lo volesse consultare è www.codici.org, e nella sua struttura territoriale abruzzese denuncia una cosa che francamente suona sinistra, oserei dire. La notizia è questa: oltre 300 persone in pericolo, emergenza, due palazzine comunali a rischio crollo e ci troviamo a Pescara. Insomma, con lo sciame sismico che sta continuando, ricordiamo che in Friuli, 3 mesi dopo la prima devastante scossa, ce ne fu una di uguale intensità che provocò ancora danni. Ecco, in questa situazione c'è chi vive nel rischio a Pescara. Ma per vedere se effettivamente è così la situazione, oltretutto queste due palazzine comunali in situazione di degrado sono di proprietà del comune, noi abbiamo chiamato a parlarne Domenico Pettinari, che è il segretario provinciale di Codici Pescara. Buongiorno Pettinari. Buongiorno. Abbiamo chiamato Nello Raspa, che è un abitante di una di queste palazzine. Buongiorno Raspa. Buongiorno a tutti. E Camillo D'Angelo, che è il vice sindaco facente funzioni del comune di Pescara. Buongiorno D'Angelo. Buongiorno. Allora, io direi di partire da Pettinari. Da dove spunta fuori questa denuncia? Dal nulla, oppure è una situazione pregressa che oggi invece diventa una situazione rischiosa? Ricordiamo che pochi giorni fa, tra le altre cose, c'è stato anche un sopralluogo dell'assessore alle politiche della casa Alberto Balducci, che si è recato anche sul tetto di questi immobili. Allora Pettinari. Allora, noi iniziamo nell'anno 2006, anno in cui denunciamo per la prima volta lo stato di degrado, di pericolo delle palazzine di proprietà comunali siti in Pescara in via Caduti per Servizio. Dal 2006 ad oggi abbiamo messo in atto una serie di mobilitazioni, manifestazioni e denunce. Io ho di fronte a me oltre 14 diffide e denunce inviate al Comune di Pescara con il timbro del Comune di Pescara. L'ultima lettera è datata 28 aprile 2009. Con questa lettera noi chiedevamo un incontro immediato al sindaco facente funzioni D'Angelo entro 48 ore per l'emergenza che appunto si esponeva nella lettera. L'emergenza è la seguente: queste palazzine sono interessate da un dissesto evidente in diversi punti delle strutture portanti, ferri d'armatura completamente corrosi, abbiamo abbassamento del solaio di calpestio e intonaci che cadono quasi continuamente. Questo che le sto dicendo è naturalmente è stato anche ripreso da diverse relazioni dei Vigili del Fuoco, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara, e l'ultima relazione dei Vigili del Fuoco è datata 30 aprile 2009, ecco, a seguito della nostra denuncia. Denuncia. Allora, in Italia spesso si è bravi a recriminare dopo, a piangere dopo, a denunciare dopo una disgrazia, più o meno grande che essa sia. Oltretutto ricordiamo, in questo comprensorio ci sono anche degli ascensori infissi, porte, finestre, insomma situazioni di pericolo. Allora, questa è la situazione così come viene denunciata da Codici. Qualcuno potrebbe dire, magari è esagerata, allora noi, siccome non guardiamo in faccia a nessuno e soprattutto diamo voce a tutti, abbiamo pensato bene di raggiungere un inquilino che è appunto Nello Raspa. Raspa, la situazione descritta da Pettinari è esagerata, incompleta, veritiera, e soprattutto le chiedo, ma dopo il terremoto o con il terremoto la situazione si è aggravata? Allora, la situazione descritta dal signor Pettinari, diciamo che si è limitato lui in certe cose, perché in effetti qui il problema è molto grave, perché cadono intonaci e lei sa che nei giardini giocano i ragazzi, no? Ed è anche rischioso per i ragazzi, perché ti cade addosso un pezzo di intonaco, non so poi come potrebbe andare a finire. Noi siamo qui e abbiamo paura anche a stare in casa. Ecco, ma la fatiscenza del patrimonio immobiliare italiano è un dato di fatto, no? Un conto è un intonaco che cade, un conto è, come diceva Pettinari, armatura a vista o magari fessure e crepe che si sono create col terremoto. Le chiedo, la situazione quindi va oltre un intonaco che cade oppure è appunto soltanto quello? Assolutamente sì, perché qui ci sono dei pilastri dove il ferro è arrugginito. Secondo me c'è un rischio di crollo, perché se un pilastro è lesionato, cioè non si può pensare di metterlo a posto mettendoci su un po' di cemento. Ecco, ma crepe ne avete avute con il terremoto oppure no? Sì, c'è un appartamento dove ha avuto delle crepe sul pavimento che prima non c'erano. Dopo l'ultimo evento sismico che si è verificato, questa signora si è ritrovata delle crepe sul pavimento e sui muri. Ecco, questo mi sembra abbastanza grave. Allora, a questo punto la situazione sembra abbastanza chiara nella sua esposizione di chi denuncia. Sentiamo la proprietà, vale a dire il comune, quindi il vice sindaco facente funzioni. Ricordiamo che in questo momento Pescara, il comune di Pescara, non sta vivendo una situazione felice dal punto di vista amministrativo dopo l'arresto e le vicende che hanno coinvolto l'ex sindaco. Prego D'Angelo, allora, come vede lei la situazione? Ah, guardi, prima di ogni cosa voglio dire che chiaramente se i cittadini protestano, evidentemente qualche cosa che non va c'è sempre, altrimenti non credo che le persone si divertano a protestare. Questa è la premessa di fondo. Che poi si riconduca a questo cattivo stato di quelle palazzine a effetti derivanti dal terremoto o a rischi di crollo, a rischi di incutere paura, è evidentemente un'operazione che non mi riguarda, non ci riguarda. Noi come Comune abbiamo fatto tutte le verifiche strutturali che ci competono e non c'è nessun problema da un punto di vista strutturale. I palazzi, le due palazzine sono chiaramente, come hanno detto alcuni residenti, dove alcuni pezzi di intonaco si staccano, come succede spesso in quasi tutte le abitazioni normali, compreso quelle le abitazioni comunali. Quel quartiere è un quartiere altamente degradato. Noi abbiamo già precedentemente fatto un intervento di 170.000 euro, adesso sono in corso una gara, lavori per ulteriori 140.000 euro, ma non da oggi, già dalla fine del mese di dall'anno 2008, poi le procedure di appalto sono quelle che certo, sono, certo. Sta lavorando, ci sono delibere e stanziamenti di ulteriori 140.000 euro per la messa in sicurezza di questo stabile. Ecco. Messa in sicurezza non significa messa in sicurezza a seguito di terremoti o danni strutturali. Noi abbiamo ingegneri strutturisti che hanno certificato che non c'è nessun problema. Se è un problema di pavimentazione, di qualche pavimento su un balcone, di infiltrazioni d'acqua, questo non è disconosciuto dall'amministrazione, assolutamente. Però ricollegare un terremoto a qualche crepa che è sul muro, possono essere saltate, a intonaci che possono cadere. No, ma è chiaro, dottor D'Angelo, è chiarissima la situazione, cioè mi pare che qui ci troviamo di fronte a due visioni. L'una, quella di chi denuncia, che dice attenzione, il terremoto ha aggravato la situazione, signor vice sindaco, perché nessuno lo sta dicendo che il terremoto ha causato questo, no. Qualcuno dice, Codici e anche il nostro radioascoltatore dicono è una situazione che noi denunciamo dal 2006, per noi sono edifici pericolanti. Dall'altra parte c'è il comune che dice, signori miei, noi abbiamo i nostri ingegneri strutturisti che hanno detto e hanno certificato che quelli non sono immobili a rischio crollo. Se c'è da intervenire, interverremo. Allora io direi, in questa situazione che mi sembra proprio spaccata in due come una mela, in cui c'è chi la vede in un modo e chi la vede in un altro, io lascerei la parola all'abitante. Dottor Raspa, lei ci abita, allora qual è la situazione? Guardi, intanto vorrei smentire il signor sindaco quando dice che sono stati stanziati 140.000 euro. Sì, ma non andiamo sui soldi, perché la questione non sono i soldi. È agibile o non agibile il vostro immobile? Ma guardi, io non ho mai detto che non è agibile, certo. Però c'è un rischio, c'è un rischio, perché se un pilastro è lesionato, se un pilastro ha dei ferri fuori e sono corrosi, il sindaco non mi deve venire a dire che il palazzo è integro, perché il palazzo non è sì, integro. Comunque il vice sindaco, il vice sindaco facente funzioni, questo per correttezza non lo ha detto semplicemente che ci sono state delle certificazioni che dicono che quell'immobile ha bisogno di essere riqualificato, ma non è così a rischio. Cari radioascoltatori, noi seguiremo ancora questa vicenda perché mi pare abbastanza significativa delle paure dei cittadini, ma anche dei ritardi magari delle amministrazioni comunali o pubbliche in genere. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, torneremo sul caso. Grazie a regia Giacomo Spunta, in studio a Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.